sono a ABC Non Rio, un centro sociale di Manhattan. Oggi è il 15 giugno 2012 e Vicky Lo ci ha cortesemente dato un bel po' di tempo che non ha molto a disposizione per parlarci della situazione nelle carceri statunitensi. Le farò alcune domande e poi tradurrò il tutto in seguito. Sto chiedendo a Vicky di darci una panoramica della situazione degli Stati Uniti, delle lotte correnti dentro e fuori delle prigioni, delle carceri. Okay, so in the US, there are approximately 2.4 million people behind bars right now, so in jails, state prisons, federal prisons. This doesn't include people who are in immigrant detention or immigrant prisons. So if Ci sono correntemente approssimativamente 2,4 milioni di persone incarcerate negli Stati Uniti. Il Dipartimento della Giustizia fornisce queste informazioni, però non include tutti coloro che sono in qualche forma di detenzione come immigrati. Come per esempio anche in Italia, nella situazione che è nei CIE e in altre situazioni simili. Okay, and so I want to give examples of two very different forms of prison justice organizing that are happening right now to give an example of both the spectrum of prison organizing, but then also how gender plays into how struggles are supported. Darò allora un paio di esempi dei tipi di lotte che si stanno svolgendo nelle carceri statunitensi e inoltre come la questione di genere svolge un ruolo decisivo in queste lotte nelle carceri e anche fuori. So, the first one I want to talk about is the Pelican Bay hunger strike. Il primo esempio è da Pelican Bay, dove c'è stato e continua a esserci una grande lotta all'interno, provocata dalle condizioni orrende in cui i carcerati si trovano e che in molte occasioni sono sbattuti dentro delle celle di isolamento. Che si chiamano security, oh, special, no, security, secure housing Security housing unit, unit, yeah. grazie, thanks, unità di sicurezza, cioè unità di celle di sicurezza, che non sono altro che dei buchi veri e propri, delle celle in cui non viene luce, dove le porte sono bucherellate, sembra della groviera. E il cibo viene passato sotto le porte. Quando i carcerati vengono portati fuori, vengono portati fuori da soli, in piccoli cortili, di nuovo in isolamento, proprio non c'è quasi nessun contatto umano. E io aggiungerei, cioè da quello che so, che alcuni, si parla di un carcere prevalentemente, anzi quasi esclusivamente per uomini, ci sono casi raccapriccianti di persone che sono state messe in celle di isolamento per ben 20 anni, se non di più. Bene, allora, il modo in cui questi carcerati incadono in questa trappola delle celle, unità di celle di sicurezza, e quando sono accusati di essere membri di una banda, diciamo. E questa accusa è completamente anonima, infatti i carcerati non hanno neanche il diritto di sapere da dove viene tale accusa, tanto che per uscire da queste celle, da queste buche, devono in pratica diventare informatori o lo chiamano il debriefing, cioè nel senso che devono o ammettere di essere parte di una banda, anche se non lo sono, oppure in pratica accusare qualcun altro. Indicare qualcun altro che poi sarà messo esso stesso dentro questa cella di isolamento. E la situazione è tale, diciamo, di tale brutalità che addirittura il servizio sanitario è minimo, cioè se magari se non manca del tutto, e per ricevere tali servizi, cioè di base, nel carcere devono di nuovo, cioè, o ammettere di essere una banda e poi anche indicare qualcun altro come membro di una banda, e che verrà ovviamente sbattuto dentro la cella dopo che è stato liberato quello che ha accusato l'altro. E poi, se, per quanto riguarda anche vedere o avere la visita di un legale per magari ricevere il permesso di uscita condizionale, condizionale, nel senso che alle volte uno può avere la possibilità di uscire dal carcere, però a condizione di non commettere nessun reato e sotto anche sorveglianza o coprifuoco. Ebbene, per avere tale possibilità, anche se magari sono giunti alla possibilità di farlo, gli viene negato, gli viene negata questa possibilità affinché non in pratica fanno le accuse già citate a qualcun altro, che verrà poi sbattuto a sua volta nella cella di isolamento. Bene, allora, per protestare contro queste condizioni, contro queste questo trattamento immane, c'è stato una protesta organizzata, diciamo, uno sciopero di fame generale che ha attraversato un po' tutte le carceri californiane, protestando contro le stesse, cioè, le stesse questioni, nel senso di richiedere una cioè, ovviamente si tratta di diverse richieste, una delle quali era la fine del trattamento come criminale dentro delle carceri, con accuse false, per poi, cioè, in pratica contro le celle di isolamento e queste false accuse. Poi questo successe il 1 luglio del 2011, durò 3 settimane, si pensò a un punto che ci sarebbe stato un negoziato contro, cioè con il Dipartimento delle Carceri californiano, California Department of Corrections. California Department of Corrections and Rehabilitation. Cioè, cioè il Dipartimento californiano delle correzioni, immaginate un po' anche questa terminologia, correzioni e riabilitazioni. Ebbene, questo negoziato non andò da nessuna parte, a causa del fatto che non c'era alcuna serietà da parte di questo Dipartimento statale californiano, e quindi si giunse a ripetere un altro sciopero della fame per altre 3 settimane, a cominciare da settembre di nuovo del 2011, e quindi durò 3 settimane, ma coinvolse invece di 6.000 carcerati ben 12.000 carcerati in tutto lo stato della California, e anche, aggiungerei, oltre, mi pare che ci siano stati anche dei casi nell'Oklahoma. È successo anche che tra le 12.000 persone che parteciparono allo sciopero della fame nella California, dato che mi pare nel maggio dello stesso anno 2011 ci fu una sentenza della Corte Suprema, addirittura a livello federale, contro lo Stato della California per sovraffollamento delle carceri californiane, dovettero allora esportare molti di questi carcerati in altri stati, e mentre erano anche in sciopero di fame. Il marzo del 2012 il dipartimento, l'ente statale che gestisce le carceri californiane, il California Department of Corrections and Rehabilitation, mise sulla tavola una proposta che non faceva proprio niente per quanto riguardava la questione delle celle di isolamento e che proprio non aveva cioè nessun contenuto. Per quanto riguardava le richieste adempienza alle leggi vigenti per quanto riguarda il trattamento dei carcerati, e così alla fine di marzo i carcerati stessi, tutti quelli, adesso sto parlando soltanto di quelli di Pelican Bay, che bene, loro fecero una petizione addirittura all'ONU. Per quanto riguarda la loro condizione nelle carceri californiane, e il 31 maggio, cioè recentemente, hanno fatto causa sia allo Stato californiano che a altri enti statali californiani che dovrebbero essere cioè conformi alle leggi, specialmente l'ottavo emendamento della Costituzione statunitense per quanto riguarda il diritto a non essere torturati. Infatti, la causa che adesso viene portata avanti è una causa in tribunale, diciamo, è quella che ha a che fare con la tortura. Perché infatti la cella di isolamento è per definizione un caso di tortura e deve essere trattato come tale. Yeah, so yeah, the 31st of May then so they brought this to the Supreme Court, They filed a a lawsuit suit in federal court. in federal court. Yes. Questa causa è stata consegnata a livello della Corte Suprema Federale. Questo è un esempio recente di organizzazione all'interno delle prigioni, delle carceri, cioè per lottare contro condizioni umane, inaccettabili, che vanno anche contro le leggi stesse vigenti negli Stati Uniti. Another form of prison justice organizing that's happening across the country right now is being spearheaded by currently and formerly incarcerated women around the shackling of pregnant women, specifically while they're in labor and delivery. Un'altra forma di organizzazione e di lotta di fuori e all'interno delle carceri è capeggiata dalle donne, specialmente quelle che sono state recentemente liberate, e si tratta di una lotta di avere il diritto al parto senza essere incatenate. Questa è una cosa veramente sconcertante a queste donne incinte che hanno un parto imminente. Addirittura anche prima di essere sentenziate da qualsiasi corte vengono sbattute in prigione o in carcere e vengono trattate in tale modo, cioè incatenate durante il parto, prima del parto, durante i trasferimenti. Quindi questo c'è un caso abbastanza adesso celebre nell'Illinois, a Chicago, in cui una donna è riuscita a vincere un caso in tribunale contro un carcere che ha trattato in quel modo ed è riuscita a ricevere una ricompensa che adesso chiederò qual è stata. Però ci sono molte che si sono organizzate sia all'interno del carcere per far introdurre norme o leggi contro queste pratiche indescrivibili e anche al di fuori, cioè molte donne che ovviamente non sono neanche state, cioè hanno anche ricevuto una sentenza che si trovano nonostante tutto nel carcere, trattate in quel modo, incatenate durante il parto, anche prima. So what was the settlement? They won $several million, a $several million settlement. There was, this is a Chicago case. In the Chicago case, this was women who had been incarcerated in the jail, and but the jail specifically said that just because they were paying $several million did not mean that they were admitting to any wrongdoing in shackling these women. Allora, Vicky ci descrive la situazione, cioè questa, che il caso che hanno portato, che hanno vinto in tribunale a Chicago, comporta una ricompensa di diversi milioni di dollari, però senza un'ammissione di alcun malfatto, cioè non si riconosce il fatto che il carcere stesso ha fatto alcuna cosa grave, cioè non ha fatto nessun atto criminale. E quindi si deve ripartire anche a lottare da quel punto di vista per far riconoscere anche l'atto criminale del carcere stesso. Finora ci sono soltanto 16 stati negli Stati Uniti che proibiscono l'incatenamento delle donne incinta e che magari partono insomma in mezzo del parto. Tra questi 16 stati risulta l'Illinois, che fu il primo che istituì una legge contro l'incatenamento delle donne partorienti nel 1999, e poi tra le ultime ci fu la Florida and the other one was Arizona. L'Arizona marzo di quest'anno, nel 2012, quindi è recentissima, cioè questa serie di legislazioni che adesso vengono introdotte in diversi stati sono recentissime, e non è, come dice Vicky giustamente, non ha a che fare con un risveglio tra governatori o legislatori che tutto un tratto, o legislatrici si può anche aggiungere, che tutto un tratto si rendono conto dell'immoralità di questo tipo di trattamento di donne incinta, ma piuttosto il risultato di una lotta molto aspra, iniziata, organizzata da donne stesse, ex carcerate e anche carcerate, e le loro alleate e i loro alleati, per premere in tutti gli stati dove possono premere, portando anche casi in tribunale, facendo ricorso legale, e con altri modi, così costringendo a queste legislature a introdurre queste leggi contro questo abuso. Ci sono i casi del Georgia, del Massachusetts, in cui si sta portando avanti questa battaglia per introdurre leggi anti-incatenamento di donne incarcerate. E finora non è risolto, però si organizzano all'interno e all'esterno delle carceri queste donne e le loro alleati. E nella California, intanto, le donne si sono organizzate anche per ampliare la legge di anti-incatenamento per includere tutte le attività che comporta l'essere incinta, come per esempio i vari controlli medici, i trasferimenti da un carcere all'altro e cose del genere. Tuttora, infatti, in questi 16 stati esiste soltanto una norma contro l'incatenamento durante il parto, però non include nessun altro periodo dell'essere incinta, cioè una può essere incatenata in vari modi durante il periodo prima del parto, e cioè potrebbe avere anche una cintura di ferro per tenerla incatenata, che ne so, parte di una cella, può essere ammanettata anche ai piedi, anche al collo, cioè può anche addirittura essere portata con collare, attaccata con la catena sia alle mani che ai piedi. Cioè tutte queste varie posizioni che ovviamente per una donna incinta sono veramente dure, sono veramente quasi insopportabili. Quindi si va avanti con questa battaglia. Nella California si è cioè la legislatura in pratica avrebbe accettato di estendere la norma per tutto il periodo diciamo dell'essere incinta, e però il governatore si è rifiutato di firmare questa nuova legge. Vicky vuole sottolineare specialmente e giustamente il fatto che queste lotte delle donne purtroppo vengono sovente ignorate, e perché non vengono considerate come parte cruciale delle lotte della resistenza nelle carceri, come invece dovrebbero essere. E inoltre quando succedono questi casi, come per esempio quello che ha già citato e descritto lei per quanto riguarda la lotta contro l'incatenamento per le donne incinta, non sono storie che poi vengono diciamo discusse e fanno parte dei discorsi delle lotte per la giustizia nelle carceri, non proprio vengono quasi messe in disparte. O non vengono neanche citate, e questo è un grande problema all'interno delle organizzazioni, dei collettivi stessi che lottano per i diritti dei carcerati e delle carcerate, e che lottano anche per, diciamo, per la, cioè, resistenza al carcere in sé. Inoltre volevo aggiungere, perché mi ero dimenticato di farlo prima, che il modo in cui si sono organizzate per quanto riguarda le diverse lotte anti-incatenamento, tutto succede tramite la voce che si sparge tra le donne stesse. Descrivono le storie orrende, le esperienze, le durissime prove che hanno dovuto sopportare nel carcere una volta che sono uscite, oppure anche quando sono dentro le carceri riescono in qualche modo a farne sapere a altre donne e alleate e alleati vari, che poi diffondono le informazioni a altre che poi si organizzano per provvedere a un ricorso legale o quant'altro. Per quanto riguarda l'aspetto organizzativo di queste lotte interne al carcere, la situazione di Pelican Bay è piuttosto diversa, perché ci sono molti che hanno già avuto molte esperienze come in pratica autodidatti legali, che fungono da legali all'interno delle carceri e che sanno quali sono i diritti che hanno, non solo hanno esperienza ma hanno anche studiato legge magari dentro il carcere, quindi si trovano nella possibilità di poter lottare e diffondere l'informazione in maniera molto efficace, mentre invece le donne che si sono organizzate l'hanno fatto molto più spontaneamente, in pratica magari durante dei raduni, durante il giorno della mamma, e soltanto cominciando a parlare di... A descrivere, a raccontare le loro storie, e quando la gente sente ovviamente di queste storie qui sono scioccate, e allora questo magari induce anche all'azione, alle volte più o meno immediata, e quindi c'è molta più, diciamo, auto-organizzazione tra le donne, perché non hanno l'infrastruttura legale che hanno molte volte quelli come ci sono quelli per esempio incarcerati di Pelican Bay, che possono usufruire di non solo molta esperienza ma anche di un'infrastruttura legale al di fuori del carcere, che è già molto sensibile a situazioni tipo l'obbligo in pratica di dover indicare qualcuno come criminale anche quando non lo sia, per riuscire a evitare di essere sbattuto in una cella di isolamento e altri abusi simili. Oh, and one addition to the idea of sharing stories is that in several of the states that have passed legislation restricting or banning shackling and that are trying to, it's been the women's stories that have convinced legislators to introduce this legislation, because in several states... Il fatto di, cioè, di raccontare queste storie è fondamentale da diversi punti di vista. In un senso, perché beh, uno si sfoga pure perché per aver fatto un'esperienza del genere ha bisogno anche di poterla raccontare, ovviamente. E raccontandola poi viene fuori che molte altre hanno avuto esperienze simili. Però hanno avuto di fronte un ostacolo in più per riuscire a, diciamo, passare all'offensiva e a lottare contro queste pratiche di tortura, diciamo. E perché tortura è pure, I'm calling it torture as well. Però cioè, raccontando queste storie e mettendole insieme, cioè raccontandole a legislatrici e legislatori, da prima non fu sufficiente, perché magari un legislatore o una legislatrice chiamava il carcere, il sovrintendente del carcere, cioè il direttore del carcere, e chiedeva: ma io ho sentito questa storia, no, che avete incatenato questa donna, ma è vero? E loro ovviamente rispondevano con, cioè, negando il tutto. E così, mettendo insieme diverse testimonianze, centinaia e centinaia di testimonianze, allora hanno avuto molto più peso, e è così che hanno convinto molte legislature di agire, cioè di venire a capire che qualcosa non andava, che qualcosa di illecito, o veramente, cioè lecito, però raccapricciante, inaccettabile, si stava svolgendo nelle carceri.